Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. In una Milano bagnata dal Seveso che esonda, anche Picchi di frequenza ha qualche sconvolgimento nel suo programma settimanale, quindi rinviamo l'approfondimento che un po' avevamo promesso sul convegno che il CAI ha tenuto nella giornata di giovedì 11 maggio 2017 e andiamo invece a scoprire da una parte i ragni delle grigne, dall'altra un contributo di Luca e Martino sempre sulla questione dei rifugi e in terza battuta tante tante segnalazioni di montagna, eventi, notizie, ma non soltanto. Il nostro viaggio settimanale comincia su Montagna TV, dove il titolo del pezzo è La falesia dimenticata, c'è grande successo per il crowdfunding, c'è tempo fino al 5 giugno per contribuire. A firma Francesca Cortinovis, il pezzo comincia così. Il 26 aprile scorso è partita la campagna di crowdfunding per l'acquisto della falesia di San Lorenzo d'Orsino, un progetto innovativo ed unico nel suo genere per restituire alla comunità internazionale dei climber uno stupendo luogo per arrampicare, chiuso all'inizio degli anni 90. A 10 giorni dall'inizio della campagna online su eppela.com è stato raggiunto il 43% dei fondi necessari, coinvolgendo nel progetto 134 persone. Il brano è corredato da una serie di suggestive fotografie, ricordo che la durata è di 40 giorni, termina tra un paio di settimane, 20 giorni diciamo, trovate il tutto su Dolomiti Open, la pagina Facebook, oppure appunto su montagna.tv. Mentre spostandosi su planetmountain.com, e questa volta la notizia non è decisamente di quelle piacevoli, in ricordo del nostro amico Ueli Steck di Steve House, un ricordo dell'alpinista svizzero scomparso lo scorso 30 aprile mentre saliva il Nuptse in Nepal, nel Nepal himalayano, scritto dall'amico nonché fuoriclasse dell'alpinismo statunitense Steve House. Ueli era e sarà sempre un leader per me, un visionario internamente motivato a migliorarsi, forgiarsi, riesaminare e scoprire se stesso più e più volte. Ha scritto una grande e profonda storia con la sua vita e le sue salite. Era diventato una persona che sapeva qualcosa della propria umanità, della sua umiltà, del suo orgoglio e del suo ego. Aveva guadagnato una certa saggezza, il che è raro in questo mondo. Aveva così tanto da insegnarci. Il mondo è più povero con la sua scomparsa, arrivata troppo presto. Nei prossimi 40 anni avevamo bisogno di sentirci raccontare da lui ciò che aveva imparato con il suo alpinismo. Appunto il brano in ricordo di Ueli Steck, uno dei molti, però piuttosto piacevole nella lettura, su Planet Mountain. Mentre su una più tradizionale cronaca milanese del Corriere, un brano dal titolo Le foreste censite in 3D, parte l'inventario aereo con il laser. Inizia dalle colline e dai boschi del Pavese l'inventario del verde in Lombardia. Dal cielo si catturano tipologie degli alberi, diametro e posizione esatta. Una terra fragile, quella dell'Oltrepò come l'Alta Carnia, che punta all'innovazione per rilanciare l'economia locale. I primi in Lombardia ad aver preso esempio dai colleghi friulani, proprio gli imprenditori del legno dell'alta collina, sperimentando tecniche sofisticate per gestire al meglio le foreste. La svolta si chiama LIDAR, una tecnologia laser brevettata da un'azienda nata come spin-off dell'Università di Udine. Ora non entriamo nei tecnicismi, però è interessante che questa mappatura, questo inventario di oltre 8.000 ettari di superficie, sui 16.000 totali, è stato fatto con un primo volo di rilievi appunto con tecnologie laser, una roba abbastanza strana, una sorta di radiografia del territorio fatta per via aerea, e quindi se siete fan di questo tipo di tecniche vi do consiglio di darci uno sguardo. E in conclusione della prima rubrica, quella dedicata come di consueto alle notizie, passiamo invece agli eventi, gite sociali, escursioni organizzate dalle nostre associazioni preferite. Si comincia domani con un'escursione organizzata da Ape Roma al Monte Crepacuore, 1997 metri sul livello del mare, con appuntamento in Casetta Rossa, quartiere Garbatella, alle ore 8, dislivello di 600 metri, 6 ore di andata e ritorno di cammino per una lunghezza di 12 km. Siamo nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il giorno successivo, Appia Dei Regina Viarum, sempre a Roma, con appuntamento alle ore 10 in via Appia Antica. Questa è una cosa un po' particolare, una manifestazione che, annuale, legata alla riscoperta della via Appia, la via Appia Antica evidentemente. Quest'anno, oltre a ripercorrere un tratto dell'antica via, si toccheranno alcuni luoghi altamente simbolici della storia partigiana romana, tant'è vero che l'evento è stato appunto patrocinato anche dalla sezione dall'Ampi provinciale, con l'accompagnamento della sezione Ampi martiri delle fosse ardeatine. Racconteremo i fatti avvenuti durante la resistenza partigiana e la battaglia in difesa di Roma che qui si svolse a partire dall'8 settembre. Mentre il giorno successivo, domenica, sempre appuntamento alle ore 8, questa volta ci spostiamo nei lidi a voi più noti dell'Ape di Brescia, gita al Parco delle Fucine di Casto. Maggio con la radio, siamo gatti e Ape Brescia organizza un'escursione al Parco delle Fucine di Casto in Val Sabbia. Partenza ore 8 dal parcheggio metro prealpino lato negozi, sul posto ore 9 presso il punto informativo nel parcheggio del parco. Cambiamo weekend, questa volta in partenza con l'Ape di Milano, che in realtà già questo weekend anch'essa organizza una gita che ho colpevolmente dimenticato, ma forse riesco a trovarla al volo, forse no. Eccola qua, sempre domenica 14 maggio, gita per tutti alla Capanna 2000 con appuntamento alle ore 8:15 presso il piano terra del quartiere Isola. Mentre il weekend successivo, una due giorni, dicevo, di Ape Milano, 20-21 maggio, Anello Devero, Veglia Devero. Una due giorni per escursionisti, quella in programma il 20-21 maggio 2017. L'obiettivo è percorrere l'anello che permette di andare dall'Alpe Devero all'Alpe Veglia. Un dislivello di 900 metri, un minimo allenamento, così un buon livello di allenamento e resistenza, niente tecniche strane o alpinistiche, pernottamento al rifugio Cai Arona, pranzi di sabato e domenica al sacco. Questa per la proposta di Ape Milano, mentre sempre domenica 21, con appuntamento questa volta alle 7:30 all'Arci Persichello di Cremona, escursione sul Monte Stino, scarpe rotte, la montagna per tutti. Ciascuno di questi eventi lo trovate sulle rispettivi siti internet e pagine Facebook delle sezioni apeine, mentre per andare insomma più sul mainstream, allo Spazio Oberdan, Fondazione Cineteca Italiana, parliamo sempre degli eventi di maggio, torniamo a parlare anche di fatti milanesi. Dal 15 al 21 maggio torna per l'ottavo anno l'edizione milanese del Trento Film Festival, giunta essa alla 65esima edizione, tematiche di alpinismo, cultura montana ed ambiente. Se volete darci un occhio, trovate la notizia un po' dappertutto, ma specialmente ed evidentemente sullo scarpone .kai.it. Noi ci ascoltiamo ancora 2 minuti 2 di musica e poi entriamo nel vivo, nel cuore della trasmissione, con qualche brano tratto dall'ultimo film pubblicato sulla lunga storia dei ragni di Lecco, che è La Grigna dei Ragni, un film di Ricky Felderer. Lay me. Ah, il Castagna era un tipo deciso, cioè... Anche grazie a queste persone che sono andate su queste pareti e hanno avuto il coraggio di guardare più in là di quelle che erano probabilmente le loro possibilità in quel momento. Devi tirar fuori qualche Madonna e passare. Cioè, allora in quel momento lì il tuo carattere si cambia. Materiale, chiodi, moschettoni, facevo io. Per me le grigne sono la montagna di casa. Con la corda non tutti l'avevano. Beh, diciamo che io scelgo le vie in base alla loro storia. Mi saliva dalla Calolden, io partivo da casa a piedi, andavo su dalla Calolden, anche con gli sci spalla. La mongolfiera, la via dei ragni della mongolfiera, la Bonatti e la Costanza, la Castagna Alta, la via dei ragni e magnaghi, me la ricordo finché crepo. La storia è nota e lo scorso anno ha compiuto almeno 70 anni d'età, quella dei ragni di Lecco o ragni della Grignetta. Nella prima puntata di Picchi ne abbiamo parlato con Gigi Alippi, uno dei giovani protagonisti della prima stagione, quella dei primi anni 60 in compagnia dei grandi vecchi quali Riccardo Cassin. Ecco, oggi per l'ennesima volta in realtà di quella storia è stato fatto un film. Il titolo del film è La Grigna dei Ragni. Un mesetto fa è stato pubblicato online, quindi è liberamente visionabile su YouTube, e volevo proporvene qualche estratto che raccoglie alcune delle voci, insomma, più belle, più preziose, che ancora oggi ricordano la grande stagione, l'epoca d'oro di questa esperienza tutta prealpina e lombarda. Mi piaceva raccontare la storia, no? La storia di queste salite, come sono state fatte, chi le ha fatte, chi erano le persone che andavano a scalare in Grigna, perché andavano a scalare in Grigna, perché sono un po' le motivazioni che ho io, no? Una volta non ci si poteva spostare tanto perché non c'erano i mezzi, perché non c'erano i soldi, è un po' la cosa che ho io, non che non ho i mezzi, ma sostanzialmente non ho tanti soldi, quindi devo cercare di fare un alpinismo un po' casalingo, però facendo un alpinismo casalingo non è che c'è tutto scontato, tutto banale, perché le cose, se vuoi, le tiri fuori anche qua. Allora, certamente. Basta avere un po' di fantasia, un po' di voglia, le tiri fuori anche qua, no? Assieme a Ricky Felderer in questa avventura, Cesare Castelnuovo, Luca Polvera e Yuri Palma. Il film è dedicato alle prime salite in libera degli itinerari che hanno fatto la storia dell'alta difficoltà su roccia tra le guglie della Grignetta, la Castagna Alta, la Via dei Ragni, al Torrione Magnaghi Centrale, la Bonatti al Torrione Costanza e la Via dei Ragni alla Mongolfiera. Non è solo la cronaca di appigli e prestazioni atletiche, spiegano dal gruppo alpinistico, ma una storia, un confronto tra generazioni diverse che sui paracarri della Grignetta hanno trovato il terreno per esprimere la loro creatività e la loro voglia di avventure. Lecco Notizie. Era su che da solo, perché avevano litigato lui e Ratti, no, il Vittorio Ratti, erano amici, avevano litigato perché il sacco di bivacco che non so se pesava due etti o tre, doveva portarlo uno, doveva portarlo l'altro, tocca a te, allora sono andati su il rifugio, dopo pranzo o al mattino, ci sono andati uno su una cima, una su, non so se sono una del Vittorio o una del Bairro. E appunto Tito Piaz, vedendolo su Gigi Vitali sulla parete lì della Punta Emma, da lì dal rifugio si vede bene, l'ha visto arrampicare e gli ha detto: ma quello lì sembra un ragno arrampicare, proprio perché andava su che... allora il Gigi qua chiamiamo il gruppo Ragni. La storia delle grandi scalate del gruppo delle Grigne a cavallo tra il 50 e il 52 fino al 1960, vie aperte da Antonio Castelnuovo, Giovanni Ratti, Walter Bonatti e soci, e anche la storia di chi ha provato negli anni 2012-2013 a ripetere quell'impresa facendolo in arrampicata libera, e quindi anche la storia di Matteo Piccardi e Gerardo Gerri Redepaolini, Giancarlo Sironi. diventa un'esperienza a 360 gradi, altrimenti rimane sostanzialmente una cosa vuota, no? Priva di significato per me. Non sono salite come tante altre, ecco, sono piccole perle, a mio parere. Mi piacciono perché appunto non hanno un carattere, hanno una storia, hanno delle linee soprattutto, dei nomi bellissimi, che a volte non ci sono, sono andato a fare il tal 7B, il tal te non te le ricordi nemmeno, no? La mongolfiera, la via dei ragni della mongolfiera, la Bonatti e la Costanza, la Castagna Alta, la via dei ragni e magnaghi me la ricorderò finché crepo. Finché creperò, finché campo. Il film non è che l'ultima, anzi la penultima, di una lunga produzione filmografica, questa la prendo da Wikipedia, sulla storia dei ragni della Grignetta, Torre del Vento di Mimmo Lanzetta del 74, Fitzroy Parete Est di Ferrari 76, una storia di uomini e montagne, prodotto dai Ragni di Lecco nel 2006, Le grandi prime dei Ragni di Lecco 2013, Uli Biaho 2014, sempre con Yuri Palma, e The Great Shark Hunt del 2015. Poi arriva questo film e oggi, anzi proprio in queste settimane, la notizia è di poco meno di un mese fa, del 4 aprile 2017, il film del 70° dei Ragni in concorso al Trento Film Festival, l'opera curata dal regista Filippo Salvioni e presentata in anteprima l'anno scorso al pubblico lecchese dal titolo Ragni, sarà appunto in concorso per l'edizione 2017 del Trento Film Festival, mentre noi ritorniamo a sentire le voci dei Ragni della Grignetta. Riusciamo a fare determinate cose anche grazie a chi ci ha preceduto, anche grazie a queste persone che sono andate su queste pareti e hanno avuto il coraggio di guardare più in là di quelle che erano probabilmente le loro possibilità in quel momento lì. Comunque in Grigna noi ci siamo preparati. Tu quando andavi al Nibio a arrampicare, tu facevi quattro vie, perché Gallini mi arrivava alle 4 del mattino, io magari ero andato a letto a mezzanotte e suonava, io prima di guardare lui guardavo il cielo, se era brutto, dopo era bello, venivo giù, andavamo al Nibio, facevamo quattro vie e poi alle 8 andavo a lavorare. Per me le Grigne sono la montagna di casa. Ho iniziato a scalare qui, sono molto formative, mi hanno preparato per le Dolomiti, mi hanno permesso di fare esperienza anche nella chiodatura, quindi cose che poi mi sono servite moltissimo anche nell'attività più tradizionale in montagna. E così tu dopo puoi andare dove vuoi. Ecco, io penso che i ragni sono diventati famosi così, cioè hanno fatto queste vie che poi ti trovi nelle vie importanti, che ritrovi questi passaggi, ma sei abituato e vai. Claudio Morandini è un autore valdostano, con il romanzo Nave, cane, piede si è aggiudicato la 29esima edizione del premio Procida Isola di Arturo El Samorante nella sezione narrativa, e questa è la recensione a cura di Martino Iniziato. Nave, cane, piede di Claudio Morandini è la storia di Adelmo Farandola, un uomo solitario e schivo che vive in una malga lungo la costa di una montagna. Nave, cane, piede di Claudio Morandini è la storia di Adelmo Farandola, un uomo solitario e schivo che vive in una malga lungo la costa di una montagna. L'isolamento voluto, desiderato e cercato con una cocciutaggine ossessiva produce nell'uomo la conduzione di una vita in cui a fargli compagnia. Nave, cane, piede di Claudio Morandini è la storia di Adelmo Farandola, un uomo solitario e schivo che vive in una malga lungo la costa di una montagna. L'isolamento voluto, desiderato e cercato con una cocciutaggine ossessiva produce nell'uomo la conduzione di una vita in cui a fargli compagnia sono solo i rumori della sua vecchia casa e i piccoli scricchioli della montagna durante i lunghi mesi invernali. A rompere questa solitudine arriva la presenza di un cane, che affamato e testardo riesce a vincere la cattiva solitudine di Adelmo, diventando il suo compagno di camminate. Con il procedere del racconto, Morandini, con lievi movimenti di prosa, porta il lettore a sprofondare nella mente del protagonista, un uomo che dopo aver venduto i suoi possedimenti si è deciso per un eremitaggio sempre più estremo. La solitudine diviene così assoluta, così invasa, così invasiva, che si trova poco alla volta a dialogare con il cane, che diventa il suo alter ego. Tra i due comincia una serie di dialoghi gnomici, inerenti al senso della vita e dell'esistenza, che rappresentano il cuore filosofico del libro. Il romanzo, quindi, si muove lungo un crinale legato alla sapienza, in cui la solitudine e la pazzia sembrano essere i prodromi di una conoscenza del mondo più profonda. In questo senso, Adelmo Farandola rappresenta in tutto e per tutto l'ultima incarnazione dell'uomo del sottosuolo, che rimanda a Dostoevskij e che ha fatto della rinuncia al mondo la sua stolta saggezza. A minare questo equilibrio precario c'è il ritrovamento, dopo una valanga, di un piede umano. Adelmo cadrà lentamente prigioniero delle sue allucinazioni, che diventeranno sempre più violente e invasive. L'uomo, davanti a quell'arto congelato, inizierà a pensare che la sua scelta di isolarsi sia messa a repentaglio dagli altri, che quel piede, osceno nel grigio manto di neve, ne sia la prova. Convinto di questo, decide di rifugiarsi in un luogo ancora più scuro, dove si consumerà il tragico finale del romanzo. Neve, cane, piede è un romanzo breve, ma dalla prosa accurata, dove l'abilità di Morandini sta nella capacità sintattica di mimare la pazzia del protagonista e di condurci dentro i labirinti della sua mente. Un testo molto bello e assai ben scritto, giustamente vincitore del premio Procida 2016 nella sezione narrativa. All the words that were said, all the blues and the reds get to me. There was a time when all of my mind was love. Now I find that most of the time love's not enough in itself. Dai microfoni di Picchi di Frequenza avevamo già trattato nei mesi scorsi diverse volte il tema della progressiva trasformazione dei rifugi da quello che era la sua essenza, la loro essenza originaria, in luoghi sempre più dediti al profitto e a un'offerta turistica ben lontana da quello che è la loro appunto natura, di luoghi di ricovero, di alloggio e di vitto per chi è escursionista, alpinista, frequenti le terre alte. Torniamo sul tema, dopo appunto che nell'autunno scorso il CAI di Milano aveva disdettato storici contratti, tra cui quello del rifugio Rosalba, ai gestori che avevano in carico per affidarli a società più in grado di valorizzare l'aspetto commerciale dei rifugi, perché in questi giorni c'è una dura presa di posizione della Concommercio di Lecco proprio a difesa di quello che è il significato, il valore etico, ambientale e più vicino a quello che la montagna rappresenta rispetto appunto alle scelte del CAI di Milano. In particolare la Confcommercio parla proprio di un'idea di rifugio che viene stravolta nel suo significato più profondo ed un'idea di rifugio che è ben diversa da quella che appunto hanno oggi dalle parti del Club Alpino Italiano, quindi di rifugi che devono sempre diventare sempre di più luoghi profit, dove ci sia un'offerta anche di carattere culturale, quasi dei piccoli alberghi o dei ristoranti d'alta quota. Ci fa piacere questa presa di posizione della Confcommercio, anche inaspettata, se vogliamo, proprio per la natura imprenditoriale dell'associazione. E invece ci rammarica vedere come chi, parliamo del Club Alpino, dovrebbe appunto difendere l'ambiente montano e quello che è il significato dell'andare in montagna, scivolare sempre di più verso la china dei nostri tempi, una china dove tutto deve essere messo a valore, dove non c'è più limite al profitto, dove il profitto conta più delle persone e ovviamente di conseguenza molto di più dell'ambiente, anche quello più delicato negli equilibri come sono appunto le alte quote alpine o appenniniche. Bene, speriamo che a queste parole che potete leggere su Valsassina News nell'edizione del 10 maggio, a queste parole di Confcommercio facciano seguito altre prese di posizione e che anche dalle parti del CAI si cambi un po' rotta e che i rifugi tornino a essere quello che dovrebbero essere, appunto, dei posti dove chiunque vagando in montagna possa trovare a costi accessibili riposo, se serve aiuto e soccorso, pasti caldi, un letto, ma non certo dei divertifici o dei luna park come invece si vorrebbe trasformarli. Anche questa puntata, ed era la numero 66 in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, spero che la puntata vi sia piaciuta. Come sentirci? Come collaborare? Come segnalarci informazioni, collaborazioni o anche qualche critica? Anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sulla social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o quello azzurro all'account @abuzzo3. Mentre sul sito amonte.info trovate tutto l'archivio completo delle prime 65 puntate, liberamente ascoltabile in streaming o in download. Per tutto il resto, Picchi di Frequenza torna venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.